dalla parte dei miei occhi, su questa bocca che tace, volta la rotta dai miei confini, lascia scorrere i pensieri su questa roccia di sale, fa risplendere i colori, fa confondere mare con le lune che vorrai, che portano i sorrisi, che affondano bugie e giorni saltano fuori da trappole. Yeah.